parlare della fede non sarà mai sufficiente. Prima di tutto perché, meno come sta scritto nella parola di Dio, senza fede è impossibile piacere a Dio. Poi perché il giusto vivrà per fede, il che vuol dire non solo che si è salvati tramite quest'ultima, ma che la fede è l'elemento indispensabile per rimanere in comunione con Dio, dato che essere in comunione con Dio significa essere in armonia con il Creatore, cioè vivere. Benché la fede abbia questa vitale importanza, molti credenti, anzi la maggioranza di essi, hanno un'opinione sbagliata della fede, forse, dovuta alla poca attenzione a questa virtù, e anche meno occorre riconoscerlo, meno dovuta ad una certa pigrizia nel comprendere cosa sia veramente la fede. Infatti si accettano le varie opinioni generali e la propria cultura per stabilire cosa sia la fede, e così si pensa che la fede sia essere convinti di una cosa, oppure credere che esista Dio, o credere solo a una parte di ciò che Cristo ha detto. Altri credono che la fede sia essere attratti dalle cose di Dio, o seguire un sistema di regole di vita cristiana, oppure pregare o leggere la Bibbia. Non è quindi molto strano che ci sia tanta confusione in merito a cosa sia la fede. Quando fu chiesto ad una bambina cosa fosse la fede, essa rispose: credere a qualcosa che sai che non è vero. Eppure, ogni giorno noi usiamo questa virtù donata a tutti da Dio. La definizione classica che troviamo nella parola di Dio, e che purtroppo essendo stata compresa da pochi ha suscitato negli uomini un'infinità di opinioni in merito, mostra la fede come la prova di ciò che non si vede, oppure la dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei 11.1. Devo confessare che anch'io, per molto tempo, non avevo ben chiaro il significato di questa definizione. Ma in seguito, osservando l'esistenza umana, niente mi è risultato più evidente. In effetti, mentre l'opinione dei più è che la fede sia credere a qualcosa che non si vede, e di conseguenza sempre secondo questa convinzione, Dio vorrebbe da noi un atto di irrazionalità, in verità Dio vuole semplicemente che l'uomo creda a quello che vede. Questo aspetto della fede capovolge completamente l'opinione che si ha riguardo a essa. Con queste riflessioni mi impegno a spiegare dove si sbaglia e a incoraggiare tutti ad esercitare quella fede che è la dimostrazione di quello che non si vede. Un giorno Gesù disse che per comprendere le cose che appartengono a Dio è necessario prima credere alle cose terrene, Giovanni 3.12, e come prova di ciò abbiamo due esempi nella Bibbia. Nel Vangelo di Matteo 8.5.13 si narra di un certo centurione che era andato da Gesù per chiedere se poteva guarire. Ma il centurione replicò che non era necessario la sua presenza in casa sua, ma chiedeva se poteva esprimere una sola parola e il suo servo sarebbe guarito. Come per giustificarsi di questo rifiuto di vedere Gesù entrare in casa sua, il centurione disse: «Perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei soldati. E se dico al uno, va, egli va, e se dico all'altro, vieni, egli viene, e se dico al mio servo, fa, questo egli lo fa». Nel sentire le ragioni del centurione, Gesù, tutto meravigliato, rispose: «In verità vi dico che neppure in Israele ho trovata una così grande fede». Dunque un romano, uno che non era educato nella legge di Dio senza una fede ebraica, aveva più fede di tanti ebrei educati? Secondo verità. Da dove scaturiva tanta fede nel centurione? Semplicemente nel considerare la vita. Se i suoi soldati, che erano sudditi, ubbidivano ai suoi ordini, quanto più la malattia avrebbe ubbidito di andarsene dal soldato ad un ordine impartito da Gesù. In questo pensiero non professato apertamente ma implicito nel discorso, il centurione riconosceva in Gesù un'autorità superiore alla sua, ammetteva in lui un'autorità divina. L'altro esempio lo leggiamo sempre nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 15, 22-28, si parla di una donna cananea, e quindi straniera, non appartenente al popolo di Dio, la quale gridava a Gesù di guarire sua figlia da un demone che la tormentava. Gesù rispose tramite i discepoli che il suo ministero era indirizzato a quelli che appartenevano al popolo di Israele, ma la donna, venuta a sapere questo, andò da Gesù, l'adorò e insistette di essere aiutata. Gesù allora replicò: Non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. A questa risposta, che conteneva in sé una certa dose di umiliazione, la donna rispose con molta umiltà: «È vero, signore, poiché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Al che Gesù rispose dicendo: «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi». Anche questa donna pagana è stata lodata per la sua fede, cosa che Gesù non fece neppure per i suoi discepoli. Matteo 8.26. Da dove derivava tanta fede in questa donna pagana? Dall'osservare le vicende della vita e crederci. Se la vita funziona in un certo modo, nel mondo spirituale non sono diverse. Perciò, se la fede nelle cose spirituali è rara, forse è anche perché siamo increduli nelle cose terrene. Perciò, prima di parlare delle cose divine, facciamo esempi delle cose appartenenti a eventi quotidiani. Se hai dormito profondamente tutta notte e al mattino ti alzi e vedi bagnato tutto per terra, quando il giorno prima era asciutto, tu credi e sei convinto che sia piovuto durante la notte. Se vedi la macchina del vicino con la portiera vistosamente ammaccata mentre il giorno prima era intatta, sei convinto che questa è stata vittima di un incidente. Se sulla neve vedi le orme di un gatto, sei profondamente convinto e senza ombra di dubbio che esse siano state lasciate da un gatto. Tu non hai visto piovere, non hai visto l'incidente alla macchina, non hai visto camminare il gatto sulla neve, ma da ciò che hai visto per fede trai delle conclusioni corrispondenti alla realtà dei fatti. Non può essere diversamente. Cioè, non possono essere diverse le tue conclusioni come non possono essere diversi i fatti. Una serata limpida senza nuvole non può far piovere, come non può una portiera ammaccarsi senza subire un violento urto, come non può un lasciare l'impronta di un gatto un animale diverso. Qui non si tratta di essere illogici, ma profondamente coerenti, sani, tani, intellettualmente e profondamente logici. Ogni altra conclusione verrebbe subito scartata, anche perché in ogni istante del giorno questo è il nostro comportamento. Il principio della fisica causa-effetto meno è sempre valevole e, inconsciamente, sempre presente nelle nostre valutazioni. Se una lampadina non fa più luce, o è venuta a mancare la corrente, oppure si è bruciata, questa è la nostra fede, cioè quello che crediamo. Se qualcuno ci venisse da dire che la lampadina non fa più luce, perché non vuole più fare luce, o perché non gli piaceva ciò che illuminava, tali parole ci risulterebbero a vuoto, pronunciate da una persona con dei problemi psicologici. Dunque, nella nostra esistenza terrena, per mezzo del risultantico testamento che stiamo vedendo, abbiamo fede in ciò che è in ciò che non vediamo. La nostra fede è posta non direttamente nell'invisibile, ma nel visibile. In questi termini, la fede posta nelle cose terrene non è poi così difficile, perché quello che si vede non si mette in dubbio. L'affermazione «io credo solo a quello che vedo» vuole dire proprio questo. Nella Bibbia, una raccolta di libri nei quali vengono narrati tanti episodi, meno è descritto un avvenimento che mette molto bene in evidenza la fede nei risultati di ciò che non si vede. L'episodio è tratto dalla vita di Giacobbe, nel momento in cui l'uomo, ormai vecchio e convinto della morte del figlio Giuseppe, riceve dagli altri figli la notizia che invece il suo prediletto è vivo. Giacobbe, dopo aver trascorso tanti anni di lutto, rimane incredulo e a nulla servono le insistenze dei figli. La lettura del racconto è veramente commovente. I figli gli riferirono ogni cosa, dicendo: «Giuseppe è ancora in vita ed è il governatore di tutto il paese d'Egitto». Ma il suo cuore rimase freddo, perché egli non credeva loro. Quando però essi gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva loro detto, ed egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per condurlo via, allora lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò, e Israele disse: «Basta, il mio figlio Giuseppe è ancora in vita, io andrò a vederlo prima di morire». Gn 45.2528. A convincere Giacobbe non sono state le parole dei figli, ma ciò che ha visto, cioè i carri. Giacobbe ha avuto fede in ciò che vedeva. E se c'erano i carri, significava che Giuseppe veramente era ricco e potente. Giacobbe non aveva mai visto Giuseppe né da grande né come vice faraone, eppure credette a ciò che non aveva mai visto, tramite ciò che scorgeva. Questa è la fede giornaliera, e Dio non ci chiede nulla di più. Non ci chiede di credere che il sole faccia piovere, che le ammaccature delle macchine avvengano da sole, o che una volpe lasci una impronta di un gatto, come non ha chiesto a Giacobbe di credere che suo figlio fosse vivo senza averne le prove. E poiché il Dio dei cristiani non è un Dio disumano, anche nelle cose spirituali non ci chiede nulla di più. Poiché Dio ha ordinato di non aver due pesi e due misure, anche Lui non chiede comportamenti diversi tra il materiale e le cose divine, anche perché le leggi che regolano le cose terrene sono le stesse che regolano le cose celesti. Come vi è causa ed effetto nel terreno, vi è causa ed effetto anche nello spirituale. Come uno che beve un potente veleno muore, così, meno, come dice la parola di Dio, il salario del peccato è la morte. Due azioni e due reazioni uguali. Dunque, se Dio nelle cose terrene chiede una fede nel visibile per credere all'invisibile, lo stesso pretende nelle cose spirituali. La fede è dunque la dimostrazione di ciò che non si vede, e con questo si vuol dire che le realtà spirituali vengono messe in evidenza dal comportamento del credente. Infatti, essere in pace con Dio pur sapendo di essere dei peccatori non degni di andare in cielo è il risultantico testamento di un atto di fede nell'opera sufficiente di Cristo compiuta sulla croce e nella tomba risorgendo. Gioire ogni giorno, anche quando le circostanze sono avverse, è il risultantico testamento di una completa sottomissione alla sovranità di Dio. Amare i propri nemici e pregare per loro perché siano perdonati se sono inconsapevoli dei loro gesti è il risultantico testamento di aver compreso l'amore di Dio. Dunque, anche se nessuno è in grado di sapere chi realmente ha accettato per fede e per grazia l'opera di Cristo quale suo unico salvatore e padrone della propria vita e volontà, è possibile vedere l'esperienza spirituale dai suoi risultati. Anche se nessuno può comprendere quanto un credente si abbandoni a Dio o abbia compreso il suo amore tramite Cristo, lo può vedere dalla sua serenità e gioia. Questa è la fede che Dio richiede, sia all'ateo sia al credente, e questo è anche il modo di comprendere la parola di Dio e di leggerla. Quando l'Apostolo Giovanni scrisse ai credenti, «Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi», 1 Giovanni 4.12, stava proprio annunciando questa verità. Che Dio non si possa vedere è un fatto risaputo. Che Dio non si possa conoscere, tutte le religioni lo ammettono. Ma se i credenti si amano gli uni e gli altri, cioè se hanno un comportamento di misericordia e di sopportazione quando non è possibile averli, allora lascia intendere Giovanni questo Dio è possibile vederlo. E i credenti, afferma ora con sicurezza Giovanni, sanno che l'amore di Dio dimora in loro ed è completo. Infatti non sono poche le persone che sono state toccate dall'atteggiamento di amore di coloro che erano perseguitati, al punto di vedere in loro Cristo stesso. Se la fede è la dimostrazione o la prova di ciò che non si vede, allora credenti e non credenti possono vedere il regno di Dio nel cuore delle persone che si sono sottomesse ad esso. Niente di illogico, niente di irrazionale. Se l'orma di un gatto sulla neve può lasciarla solo un gatto, così l'orma di Dio nel mondo può lasciarla solo chi è in Cristo, perché solo Lui è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. Ebrei 1.3. Crediamo a quello che vediamo, e crederemo all'invisibile. Proprio perché la fede richiesta da Dio è principalmente una fede visiva, conducente poi a credere in ciò che non si vede, leggere la parola di Dio con questa visione arricchisce ancora di più la fede del credente. L'Apostolo Giovanni usa proprio questa prospettiva per rispondere a tre interrogativi comuni a tutti. Si tratta di problemi addotti dagli increduli come scusa per non porre fede in Cristo, e ai quali la maggioranza dei credenti non ha una risposta, e cioè come possiamo sapere se veramente conosciamo il vero Dio, come posso sapere se amo veramente i figli di Dio e come posso avere la certezza di aver realizzato la nuova nascita senza la quale non è possibile entrare nel regno di Cristo. Se crediamo che la Scrittura sia la spada dello Spirito, se crediamo che la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e B. 4.12, allora la sua lettura sarà per noi preziosa. Il primo e grande interrogativo che ci si pone è come posso essere sicuro di seguire il vero unico Dio e come posso giudicare il mio prossimo in comunione con il Dio Trino rivelato nelle Scritture. Non è forse presunzione pensare di seguire il vero Dio, e soprattutto non è forse un errore dichiarare che il mio prossimo non segue Dio? Come posso giudicare ambiti spirituali che solo Dio conosce? Se è già difficile sondare il mio cuore, con quale autorità posso giudicare il cuore altrui che solo Dio conosce? Dio non ci chiede l'impossibile, non ci chiede di entrare in compiti di sua sola competenza, ma ci chiede di vedere e osservare i fatti e da essi trarre poi le conclusioni. L'Apostolo Giovanni risponde in questo modo a questi interrogativi. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui, deve camminare come egli camminò. 1 Giovanni 2:3-6. Se prendiamo sul serio le parole di Giovanni, non si vive in un continuo relativismo dove tutti hanno ragione, dove non è possibile avere delle certezze, o che l'importante sia essere sinceri con la propria fede. Queste sono opinioni nate nel XX e coltivate nel XXI secolo, ma i primi cristiani la pensavano molto diversamente. Secondo l'Apostolo Giovanni, e quindi occorre sottolinearlo secondo Dio, noi possiamo sapere di avere la giusta fede nel giusto Dio se osserviamo i suoi comandamenti. Questa conclusione, apparentemente banale, vuol dire che chiunque non osserva i comandamenti scritti nella parola di Dio, per quanto possa dichiararsi sincero e onesto, non ha la giusta fede e non ha il giusto rapporto con il Dio Trino rivelato nelle Scritture. Non solo. Giovanni esamina la situazione anche al negativo e dichiara che non è sufficiente affermare di conoscere il vero Dio, ma se lo si afferma e non si compie la sua volontà, si è bugiardi. Ci vuole del coraggio affermare che il nostro prossimo è un bugiardo. Eppure, anche se nessuno di noi può conoscere il cuore del prossimo, cioè l'invisibile, è possibile conoscere l'indisibile da quello che si vede. Se la fede è la dimostrazione di ciò che non si vede, e con questo si vuol dire che le realtà spirituali vengono messe in evidenza dal comportamento, allora Giovanni e con lui tutti i credenti meno possono affermare senza ombra di dubbio, in base al comportamento, che il bugiardo è colui che dice essere in comunione con Dio e non osserva la sua volontà espressa nelle sante scritture. Se non si ha fede in ciò che si vede, non si può avere fede in ciò che non si vede. Il secondo grande interrogativo è come sia possibile sapere che si amano i figli di Dio. Non è un interrogativo da poco perché sono molti meno e forse troppi meno coloro che pensano di essere in regola e di amare i figli di Dio. Innanzitutto è già molto difficile sapere cosa sia l'amore, e lo ha dimostrato il cattolicesimo romano, quando ha assassinato migliaia di persone, meno secondo il suo dire, meno come atto d'amore. Del resto la conclusione è più che credibile, perché è apparentemente impensabile nel cattolicesimo che papi e vescovi abbiano agito come atto di odio. Se invece agivano con un odio consapevole, allora il cattolicesimo deve confessare una colpa diabolica. Ma il prossimo non sono i figli di Dio, perché altrimenti non ci sarebbero, secondo la definizione della parola di Dio, i figli di Dio e i figli del diavolo. 1 Giovanni 3:10. Com'è possibile allora vedere con certezza l'invisibile amore che si nutre per i figli di Dio? Chi è in grado di vedere nel cuore degli uomini? L'Apostolo Giovanni risponde. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. 1 GV 5.1. I primi cristiani si ponevano meno interrogativi di noi che abbiamo una mente e una filosofia greca, perché le cose pratiche della vita, cioè ciò che vedevano, costituivano la risposta ai loro interrogativi. Non si chiedevano, per esempio, se Dio esisteva, perché meno, anche senza conoscerlo, meno conoscevano il principio della causa-effetto. Perciò la loro conclusione era che se ogni casa è costruita da qualcuno, per ovvie ragioni logiche colui che ha fatto tutte le cose è Dio. E B 3.4, così. Non si chiedevano se una persona amava oppure no, perché l'amore è meno, sempre per gli ebrei cristiani, meno non era un melenso sentimento ma un atto pratico. Infatti, mentre i filosofi hanno scritto un mare di definizioni in merito all'amore, Giovanni ha riassunto il tutto in poche parole. Questo è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. 1 GV 5.3. Definito cosa sia l'amore, diventa più facile dare la risposta come posso sapere di amare i figli di Dio, cioè come posso vedere l'amore, che è invisibile. E la parola di Dio risponde a tono. Io posso avere la certezza di amare i figli di Dio. Quando amo Dio e metto in pratica i suoi comandamenti, ancora una volta io posso vedere l'invisibile amore dal visibile risultato. Come non è possibile che un cane lasci sulla neve l'impronta di un gatto, così non è possibile lasciare un'impronta diversa nella vita per chi ama. Amare vuol dire osservare ciò che è scritto nella parola di Dio, ogni altra impronta non è e non deve essere ritenuta amore. Il terzo interrogativo ha una portata eterna, perché non si riferisce solo a questioni di questa vita, ma ha una valenza che va oltre questa esistenza, e cioè come posso sapere di essere salvato, termine che nella parola di Dio viene definito come nato di nuovo o essere passato alla morte. Sono molte le persone e i movimenti religiosi che annunciano la necessità di un'esperienza spirituale diversa dall'ordinario, ma offrono sul mercato del variegato mondo religioso soluzioni altrettanto diverse. E se crediamo che la verità è una, per forza di cose qualcuno sbaglia, o meglio, una sola sta proponendo la verità e la giusta soluzione. Stavo osservando con interesse l'intervista televisiva ad una persona che dichiarava di essersi convertita al cristianesimo. Nel corso del programma risultò evidente che la sua conversione era dall'ateismo al cattolicesimo romano. Ma questa non è conversione al cristianesimo, bensì ad una religione. E di moda dichiarare di essersi convertiti? E così uno si converte al buddismo, all'islamismo, chi dal cattolicesimo al protestantesimo, chi dal protestantesimo al cattolicesimo. Ma questa non è la conversione intesa e voluta da Dio. Secondo la parola di Dio, la vera conversione è rivolta a Gesù Cristo quale unica persona alla quale rivolgere preghiere, unico vero Dio, unico padrone e salvatore della propria vita. Alcune religioni, con elementi cristiani, possono condurre le persone a raggiungere questo scopo, ma sarebbe un fatale errore confondere il mezzo usato da Dio per salvare con il Salvatore stesso. E come scambiare la fiaccola che illumina con colui che la porta. Detto questo, però, la confusione rimane, perché il cattolicesimo continua ad insegnare che la nuova nascita si ottiene mediante un rito religioso, senza rendersi conto, meno così si spera, meno di quanto male compie nell'ambito del cristianesimo. Come posso allora sapere con certezza e vedere quando io sono nato di nuovo? O chi è passato dalla morte alla vita? È possibile anche in questo caso vedere l'invisibile, cioè una esperienza spirituale? La risposta è affermativa, e Giovanni non lascia dubbi. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama, rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. 1 GV 3, 13-15. Secondo la parola di Dio, Ciò che dobbiamo vedere con i nostri occhi per vedere l'invisibile non è un rito, non è appartenere ad una religione o una formale confessione pubblica, ma è un cammino, un comportamento. Infatti, la caratteristica del puro cristianesimo nel suo nascere consisteva nell'opposizione che trovava in tutto il mondo, at 28.22, e nell'odio rivolto ai cristiani dai religiosi e dai politici. Perciò va da sé che non si possono amare i figli di Dio se non si possiede una nuova natura, cioè se non si è realizzata la nuova nascita o non si è passati dalla morte alla vita. Così io posso vedere l'invisibile trasformazione di una persona da parte di Dio nel vedere che ama i figli di Dio. Il visibile mi rende evidente l'invisibile come un ragazzo che ama sinceramente una ragazza mi dice che si è innamorato. Questo è ciò che Dio ha stabilito per la nostra fede e nessuno, ma proprio nessuno, potrà avere scuse alla sua presenza quando andrà nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli. MT 25.41. Che dire? Dopo queste riflessioni, dopo aver compreso che la fede donata da Dio a tutti gli uomini fin dalla nascita è sufficiente per comprendere la vita e vedere l'invisibile, non ci resta che adorarlo, servirlo e proclamare il suo amore nell'averci creati umani e come tali ci vuole fino alla fine dei nostri giorni. Novembre 2007. Ellero.